Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Arcadia, grazie a Radio Big Word. Oggi voglio parlare di vibrazioni. Vibrazioni, cioè cos'è che mi ha cambiato della terra piatta, cosa ha cambiato in me. Ha cambiato un sacco di cose. Intanto la rabbia che provavo prima non la provo più, e questo è che ha a che fare. Per come siamo stati istruiti, per come siamo stati educati. Da generazioni siamo stati portati a pensare a noi stessi, a voler dimostrare qualcosa sempre, dimostrare sempre che siamo più bravi degli altri, che meritiamo più degli altri. Perché? Perché questo? E siamo arrivati a un punto dove non ammettiamo più gli errori degli altri. Condanniamo tutti tranne che noi stessi, non guardiamo più noi stessi, guardiamo noi stessi in un'altra maniera, come ci crediamo superiori rispetto agli altri. Dicevo delle vibrazioni, queste vibrazioni, perché quando abbiamo vicino una persona che è arrabbiata, nervosa o è triste, in qualche maniera ci passa anche a noi questo malessere, questa tristezza, questa rabbia, questo malcontento che abbiamo e che possiamo sentire un po' in tutti. Invece è questo che mi ha cambiato. Quando ho capito il perché c'è così tanto malcontento, quando ho capito che possiamo vedere le cose in un'altra maniera, questa cosa delle vibrazioni, perché siamo un po' come, immaginiamoci come un alveare. Cosa fanno le api per comunicare, sia quando c'è un pericolo o comunque qualsiasi altra cosa? Vibrano. Un'ape inizia a vibrare, questa vibrazione passa a un'altra e poi a un'altra e si propaga in maniera esponenziale, in modo che tutte le api sanno quello che sta succedendo, sanno quello che sta sentendo quell'ape. Il movimento della terra piatta è la stessa cosa. Sono vibrazioni positive, perché la terra piatta è, si può dire, amore per quanto mi riguarda. Perché amore? Perché se il globo è finto, se il globo non esiste, non c'è stato il Big Bang. Se non c'è stato il Big Bang, la teoria dell'evoluzione che veniamo dalle scimmie è sbagliata. Anche se abbiamo molte cose in comune alle scimmie, non significa che veniamo dalle scimmie, ci siamo evoluti dalle scimmie. L'unica cosa che si evolve è l'anima, lo spirito che ha una persona. E nel momento in cui capiamo questa cosa, la Terra è di tutti, è fatta per tutti. Che siamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli, come volete, cambia solo il colore. Dentro siamo uguali. Quindi perché l'odio? Bisogna portarsi l'odio dentro. L'odio dentro, l'odio verso le altre persone o anche come ci stanno facendo vedere in televisione, ci fanno maturare quest'odio verso gli extracomunitari, verso gli stranieri. Perché questo? Vogliono dividerci, dividere le persone facendole combattere tra di loro in modo da. È una distrazione anche questa, per non stare a vedere, per farci distogliere lo sguardo da quello che sta realmente succedendo. Cosa sta succedendo? Che un sacco di persone non vedono più il globo, non vedono più quello che ci è stato insegnato, quello che è da generazioni, legge. Quindi cosa fanno? Cosa fanno? Qual è una forma di controllo? La paura. Tutte queste cose che vediamo in televisione dei terroristi, degli attacchi dei terroristi, è per infondere paura. Paura come forma di controllo. Perché chi ti protegge da terroristi? Il governo. Cosa fa il governo per proteggerti? Cosa fa il cittadino per farsi proteggere? è disposto a farsi togliere dei diritti per farsi proteggere dal governo. Quindi perché tiro fuori il governo? Perché comunque c'entra anche il governo, perché sono, quando si riuniscano i governi mondiali, sono tutti insieme. Se la Terra non è un globo e tutto questo è una messa in scena, un qualcosa per controllare le persone, per controllare l'umanità, per controllare la Terra, sono tutti d'accordo, quindi c'entra anche il governo, tutti i governi. Perché ci sono così tante persone, sempre più persone che vanno contro l'insegnamento che è stato dato? Perché c'è chi ha così tanta fiducia nel governo e nelle agenzie spaziali e invece c'è chi va totalmente contro e dice che sono tutta una messa in scena e che sono tutti dei burattini e le missioni spaziali sono finte, ci stanno ingannando? Come fa a esserci questo divario così enorme, no? Invece di continuare a far finta di niente, dobbiamo cercare di capire, invece di scontrarci e farci la guerra tra di noi, c'è un motivo a tutto, c'è un motivo per cui vengono portati gli extracomunitari, perché c'è sempre meno lavoro, perché sono cambiate le leggi. Per quale motivo? È controllo, e abbiamo sempre meno potere, il cittadino ha sempre meno potere. Se ci pensate, a parte il fatto che sono non so quanti anni che non andiamo a votare per il presidente del consiglio, da allora sono cambiate non so quante leggi fatte da persone non elette, e a noi va bene, nessuno si è rivoltato, nessuno ha detto niente, nessuno dice ehi, 15 anni e non c'è un governo eletto dal popolo, eppure ci cambiano le leggi, ci dicono cosa fare. Anche questa cosa dei vaccini, ci stiamo facendo la guerra sui vaccini, ma questa cosa dei vaccini è comunque decisa da persone non elette, non siamo stati noi a decidere chi ha il potere, il popolo oppure siamo sotto dittatura, perché questa qui è dittatura. Ora non voglio andare troppo nel politico, però purtroppo c'è anche quello che riguarda questa cosa, non c'è solo la NASA o le agenzie spaziali anche italiane che ci ingannano. È un po' quando dico che prende tutte le teorie complottistiche, la Terra piatta, e le mette tutte insieme, è per questo, è per tutte queste cose, perché ci stanno mettendo contro l'un l'altro, quando invece dovremmo essere uniti. Per questo dicevo delle vibrazioni, perché è una vibrazione, parte da uno, parte da una persona, questa persona con i suoi pensieri, con le sue parole, cambiando il suo atteggiamento verso gli altri, cambia, invece di arrabbiarsi, urlare o prendersela con noi stessi o con gli altri, dovremmo cercare di lasciare andare fuori questa rabbia. Come dicono anche tante canzoni, bisogna lasciare andare la rabbia, va lasciata andare via, essere meno egoisti e cercare di vedere le cose in un'altra maniera. È in questa maniera che ci svegliamo dal controllo a cui siamo arrivati, perché siamo sotto un controllo più che fisico, mentale. Queste vibrazioni, piano piano, la gente lo vede il cambiamento, lo sente il cambiamento, ed è in questa maniera che riusciamo a trovare noi stessi, a riprendere il controllo di noi, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, di come riusciamo a ragionare e pensare. Piano piano questa cosa sta venendo fuori, si sta propagando, come dicevo, come le api, o come piace dire a me della candela. Io mi sono riferito più volte alla candela, l'esempio della candela, che la candela da sola non illumina tutta la stanza, ma può accendere tante altre candele, e alla fine si riesce a vedere la verità piano piano, tutti insieme, perché bisogna essere uniti e non separati. Io sono Gabriele, grazie a Radio Big World, e dall'Arcadia è tutto. Ciao!